Cristo, popoli, è il giorno in cui le leggi da voi prende il re vostro. A voi fa sdegno vedermi assisa accanto, donna tratta da boschi, donna avvezza a vestir rustico ammanto. Tal Griselda mi piacque, tal la sdegnaste, al fine miro lei co vostro occhi. Decretato il ripudio, e voi ne siate giudici e spettatori, or che la rendo alle natie sue selve, col vostro amor quel del mio core emendo,